magari dopo te la spiego. Quando sono con il Nick, froccio segnati le punti. Zava, passami la palla che lo ammazzo da tre punti. Brucio, goncio quella rete. Tagli un'altra pista, amico, chiamami Macete. Dammi un'altra rima, esplodo stile flow, bon, come di Hiroshima. Scippo la borsetta e dopo amici come prima. La dama danza, riempiti la panza, svuotati le palle, chiuse in una stanza. Bimbo terra, hanno rubato l'ambulanza. Puri pop, zero reggaeton, stile Puerto Rico, modi Diego Calderon. Si note una, largate cabron, mammi dammi un beso, roba da bon ton. Mente sana, in Repubblica Dominicana, sotto effetto marijuana. C'hai le grane e non lo compri, questo figlio di puttana. Malavitoso dopo buono come l'arancino siciliano. Dammi a me la grana, tieniti il padano. Son sudato, socio, buttami l'asciugamano. Sono dipendente da me stesso, faccia l'essa. Cambia il cesso, ma la merda sei la stessa. Continua la messa. Organizzi party da VIP, sei un mito. Ma mi faccio i filtri col biglietto d'invito. Eh sì, da guardare sei un figo, ma sotto sotto so che sei come Rodrigo. Giù da me che è duro la vince, insiste. Vaffanculo tutto lo star system. Vi sembra triste, ma mai quanto voi nelle interviste. Sommersi nell'oro i gioielli, brilli come Nancy, noi quelli immersi nella merda come Willy. Resto leggenda, sono nelle strade da sbrigare una faccenda. Nato nella via come il ragazzo della group. Butto a terra la tua truff, il tuo look. Oggi scrivo io lo scoop, groove. Killer come Loop, sogni una donna come Brooke, ti emozioni troppo, non ti viene su. Ti finisci in un minuto come tu che poi lassù. Chi si crede la creme, sappia che anche qua giù esistono i re. Stai muto, sei come Renato, zero assoluto, su Vanity Fair. Musica di plastica come gli zigomi di Cher. Dopo che m'ascolti, t'ammazzi come Stan. Niente Miss Trend Band, solo Kiss Kiss Bang Bang. Alessandro è zona Cristo, amico, che ne dici? Levati dal cazzo, togli le radici. Dammi caramello, diamo un senso a questa sì. Merda, bye bye, fate un giro in corso Roma. Smolla il culo, tocca a me questa poltrona. Finché resto sulla gogna, bella fra, parli tanto, intanto sei carogna. La tua faccia è fastidiosa come una pisciata in autostrada. Tu sei finto, non la bevo, se mi imbocchi non mi aggrada. Non sei un gallo, niente ballo, puzza l'aria che respiri come sterco di cavallo. Nel mio regno niente eredi, sto volando, merda, tu sei ancora a piedi. State nel tuo posto, ti credi tu la star? Io non ti conosco, è la gang, ma è la gang del bosco. Con Zava e Scotch e rispetto che si scambia. Qui non è Mirabilandia, quattro cani, zero mandria. E il flow di Alessandria, 1500 il cap. Commentami sto rap, uso la tua foto come sfogo. Quando a casa mia gioco a freccette, in casa tua fai marchette come sulla sette. Quelli come noi con voi non si connette, perché ce lo fai a fete. Rapper dei poveri, devastiamo il beat tipo Cloverfield. Lascio il mic, poi sparisco come Copperfield. Oh, non prendetela male, lasciateci sfogare.